con Vincenzo Vita, autore del libro Rosso Digitale, l'algoritmo di Marx, che sarà presentato a Roma all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico mercoledì 19 giugno 2019. Vincenzo, ben trovato. Grazie, Vincenzo, come lo presenteresti questo lavoro? grazie. Percorre un lungo periodo di riflessione, nel senso che il testo non è lungo, intendiamoci, è piuttosto però denso, è fatto di vari capitoli, di cui l'ultimo, cui sono molto affezionato, ripercorre anche con qualche novità che io introduco, perché nel dibattito pubblico non c'è mai stato questo cenno. Qualche novità sul racconto della storia che portò ad alcune sciagurate scelte o non scelte dell'allora centro-sinistra del governo. Io mi assumo una parte di responsabilità, naturalmente, forse più che per i fatti, come si dice in chiesa, che per omissione, forse non ero troppo coraggione per alzare la voce, o forse non ho di farlo, chissà. Ora lo farei. Cioè, mi riferisco alla mancata, per esempio, risoluzione in Italia del conflitto di interessi, il balletto che ci fu tra Camera e Senato fino alla conclusione della legislatura senza una buona legge. Parlo del periodo 96-2001, quando io ero sottosegretario alle comunicazioni, e altri episodi ancora, qualche retroscena rispetto ad alcune leggi invece importanti che si fecero, come la legge, la 122, sulle quote obbligatorie di investimenti in produzione di film audiovisivi italiani europei, quello che poi assorbe in fondo l'industria culturale italiana, con la fiction, e a varie cose ancora, fino ad arrivare ad alcune cose recenti. In particolare mi riferisco alla brutta legge sulla RAI del 2015, firmata dal governo Renzi, che introdusse, capovolgendo una giurisprudenza costituzionale più che quarantennale, introducendo la figura dell'amministratore delegato scelto dal governo e quindi di fatto mettendo la RAI, il servizio pubblico, sotto l'esercizio del governo. Poi c'è una parte un po' più, tra virgolette, non si ripete, lo dico con un'autoironia filosofica, sul concetto di tempo, come è cambiato con l'evoluzione tecnologica, una parte che mi costò una gran fatica nella scrittura sul digitale, che poi ho aggiornato, in cui si dice, proprio con il titolo Il sogno digitale, che il digitale è il luogo di conflitti, non è, come dire, una sorta di elisir di lunga vita oppure un circo di meraviglie, è una cosa drammatica, come si vede nel caso di Amazon, no? Con i riders, il precariato devastante, e ora con i rischi, per esempio, dell'intelligenza artificiale, che è figliata da una scelta deterministica, per cui l'evoluzione tecnologica è bella in quanto tale. E poi c'è una parte sul rapporto di comunicazione politica che è quel senso, se vogliamo, ultimo del testo, cioè il vecchio rapporto tra media and politics, come diceva la ricerca sulla comunicazione che viene dalle culture anglosassoni. Il rapporto si è rovesciato, oggi la comunicazione è la politica, e la politica vive in quanto cerca di comunicare. E per finire dalla parte iniziale, che è quella che invece in termini di fatica fisica, anche nella scrittura, è stata un po' onerosa, perché ogni volta che dovevo mandare il testo e correggere all'editore dovevo aggiornarlo. Manifesto Libri è stato, diciamo, molto molto compiacente con le mie correzioni, perché effettivamente cosa dice questo testo? Era partito con una diagnosi del berlusconismo, sostenendo la tesi che il berlusconismo è ormai, non dico esomorto, non si dice mai, ma insomma in fase decisamente calante, come si è visto sul piano politico, forse Italia, ma in termini di potere di influenza del modello televisivo commerciale, no, invece ha fatto scuola, è tuttora molto forte. E aggiungevo Renzi, poi ho aggiunto ovviamente Salvini e Di Maio, più Salvini obiettivamente. Cioè, il modello di comunicazione è figliato dal berlusconismo, cioè il rapporto tra l'uno e la moltitudine, l'uno e la folla, senza intermediazioni. Berlusconi lo faceva con i videomessaggi, come ricorderete, qualcuno è stato ripristinato adesso nell'ultima campagna europea, ma con poco successo. E poi Renzi, che ha fatto strame, come dire, della sua immagine, sia nei vecchi sia nei nuovi media, e poi Salvini, che sostanzialmente segna in un certo senso anche fisicamente questa conversione della politica, all'uso dei social, ma i social intesi come una bacheca elettronica in cui c'è il leader politico che dice la sua e lo dice senza che questo apra un dialogo. Di Maio, sì, Di Maio andrebbe affrontato però su un altro versante, io ne faccio un cenno, cioè il tema dei dati, la piattaforma Rousseau, insomma il discorso andrebbe aperto più organicamente su cos'è la Casaleggio per 5 Stelle, insomma io ne faccio un cenno, in realtà il libro è un tentativo di dire al sistema politico di cui ho fatto parte, chi si svegli, il tema della comunicazione oggi è tutt'altro rispetto al passato. Questo sottotitolo, l'algoritmo di Marx? Sì, perché proprio quella parte sul digitale evoca, adesso lo dico con un po' di autoironia perché non voglio fare il marxologo, diciamo così, ci sono ben più seri di me, tuttavia evoca un passaggio assolutamente predittivo e geniale di Marx, quello del manoscritto sulle macchine dei Grundrisse, i lineamenti, no, per l'economia politica, è un passaggio che in qualche modo, parlando della potenza intellettuale della produzione, la scienza applicata alla produzione che in parte o del tutto sostituisce il lavoro umano, anticipa assolutamente la stagione di oggi, quella degli algoritmi che in realtà infatti regolano il lavoro umano e fanno in modo che il lavoro umano sia sempre più faticoso, ma meno quantitativamente e certamente più precario e legato a variabili delle macchine. E allora dico in sostanza, insomma, contro gli algoritmi che oggi sono dominanti, vedi, ripeto, il caso di Amazon o Facebook o Google, che ci sia una sinistra capace di dettare i suoi algoritmi, i negoziati. Sicuramente il passaggio dall'uomo forte di Forza Italia all'uomo forte della Lega ha sancito la personalizzazione della politica. Il passaggio poi dalla televisione, che continua ad essere un media rilevante in un paese sempre più vecchio, ai social, che scenari si prospettano? Scenari certo non molto felici, io credo. Quella che viene chiamata nei libri, io accenno a, per esempio al libro di Crunch sulla post-democrazia, e cioè appunto la fase successiva alla democrazia rappresentativa e parlamentare che abbiamo conosciuto, quella in cui le principali costituzioni sono in crisi, e il passaggio è un salto nel vuoto, perché effettivamente significa una sorta di rudimentale lotta tra poteri senza più una divisione e una regolazione. E la comunicazione, in luogo di essere, ecco, il territorio della chiarezza, dell'informazione democratica, dell'apprendimento da parte di tutte e di tutti della realtà, diventa a sua volta invece un luogo di pura egemonia e di vittoria dell'uno o dell'altro. L'utilizzo spietato dei mezzi di comunicazione con la personalizzazione della politica è oggi l'emblema di questo passaggio. Il Parlamento e le assemblee elettive in generale contano di meno, il governo si riunisce pochi minuti, ma tanto le decisioni sono prese altrove. L'Europa che cos'è? Spesso è una convenzione di poteri economici e poco più, e andiamo avanti di questo passo, e quindi la comunicazione oggi è parte integrante di un riassetto regressivo del sistema democratico, almeno il libro sostiene questa tesi che io convintamente considero quella che oggi si deve avere. Poi finirà bene, male, il futuro non si sa, la storia è fatta di salti, quando meno te l'aspetti cambia, insomma. Anche il berlusconismo, ricordate, chi è meno giovane, insomma nel 94 sembrava che dovesse durare per un'eternità, ci fu quella manifestazione a Milano sotto la pioggia contro il berlusconismo enorme, manifestazione che sembrava essere quella contro un regime, poi è finito dopo poco, poi vabbè ha ripreso, ma insomma anche questa stagione che noi stiamo osservando sotto l'egida di un governo giallo-verde in cui la parte che dovrebbe essere più legata alla storia della sinistra, cioè 5 Stelle, si è piegata nettamente alla forza d'urto, diciamo, di una destra populista, razzista spesso, persino vogliosa di un neofascismo, quella della Lega, ecco, è una situazione appunto che ci inquieta. In tutto questo i media, vecchi e nuovi, hanno un peso fortissimo. Stavo pensando alla rapidità dei cambiamenti, se pensiamo anche alla parabola renziana. Sì, quando io parlavo c'è un capitoletto sul tempo, come il tempo sia letteralmente, come dire, una variabile, se vogliamo, proprio della velocità delle tecniche. Ciò che oggi sembra possibile in pochi secondi, pensate un'operazione, no? Col computer, solo qualche anno fa richiedeva tempi lunghissimi, pensate come è cambiata la medicina, no? la diagnostica. Questo ci deve far riflettere quindi sui tempi lunghi, i cicli della storia di Brodel sono diventati, i cicli di Kondrejev, il tempo di Brodel, sono diventati oggi tempi molto più rigorosamente brevi, in cui si va dalla polvere agli altari rapidamente, però in quel periodo anche breve si possono fare disastri. Certo. E allora ricordiamo la presentazione del libro Rosso Digitale, l'algoritmo di Marx, a Roma, all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, mercoledì 19 giugno 2019 alle ore 18. Un saluto e un ringraziamento all'autore Vincenzo Vita. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci grazie, presto. Grazie, grazie di cuore.